Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sono le 21 in questo istante, buonasera da Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spalora che anche questo giovedì sera, questo giovedì di ottobre, un po' uggioso qui a Padova, penso anche un po' nel resto d'Italia, vi terrà compagnia assieme al suo fedele compagno. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Anche questa sera un live, anche questa sera un grande artista, anche questa sera grande musica qui a Blu Radio Veneto, ma ne parliamo tra qualche istante. Prima di tutto i nostri ovviamente dati tecnici. Vi ricordo le nostre frequenze, innanzitutto 88.700, 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Vi ricordo i nostri numeri telefonici, quello in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda i vostri sms, se volete raggiungerci per salutare, per fare un messaggio, per fare, che dire, qualcosa, qualche domanda al nostro artista, vi ricordo è il 346 23 20 0 33. Poi ancora, cosa vi devo ricordare? Vi devo ricordare che questa è la fascia oraria chiamata Blu Radio Sera, vi ricordo, quindi non dimenticatela mai, dalle 21 alle 22.30, e poi ancora ci sarà la classifica con Alberto Prisco e la sua musica rock ovviamente. Adesso arriviamo all'artista, perché non vedo l'ora di farvelo conoscere, si chiama Andrea Grassi. Ciao Andrea. Ciao Agostino, buonasera a tutti. Eccoci qua. Sì, Andrea, ben arrivato. Andrea, sei arrivato in treno, mi pare giusto, come cantatore, come un cantautore, un lobo, cioè uno che gira praticamente, che va avanti, che parte e va, e arriva anche in treno. Perché no? È una cosa positiva, assolutamente. Sì, mi piace molto. Poi, soprattutto quando sei in una situazione di esame in arrivo all'università, bisogna cercare di trovare qualche altro sistema. Col treno ti metti a sedere, magari ti capita una bella ragazza davanti, esatto, è una cosa ti tiri fuori il libro di storia e inizi a preparare anche l'esame. Prepari l'esame, anche pensi e prepari anche il concerto di stasera. Sì, effettivamente. No, preparato. No, vabbè, l'obiettivo di venire. Mi piace molto spostarmi per promuovere la mia musica, anche perché onestamente presentarla all'interno del mio territorio, del mio comune, mi sembrerebbe riduttivo e alquanto inutile, anche per tutti gli sforzi, gli investimenti che ho fatto, che ho messo nella mia proposta artistica. Al di là di quello, mi piace andare incontro a gente che non mi conosce e provare di portargli qualcosa che ho fatto nella mia camera. Ma una proposta artistica che nasce dal vivo dal 1996, un sacco di tempo che giri, che suoni dal vivo praticamente. Diciamo che il 1996 sì, è stata la partenza della mia carriera, fra virgolette, però diciamo che sono stati i primi passi. Quindi dalla chitarra regalata da tua nonna quando avevi 14 anni, sì, e via. Sì, sai, le prime uscite dal vivo con i primi gruppi, credo il modo in cui tutti hanno cominciato, ecco. Certo. E dopo, dal di lì, è stato un percorso artistico che mi ha portato a intraprendere poi una, se vogliamo chiamare, strada, una carriera solistica, ecco, un scrivere i miei brani, e cercare musicisti, vivere il progetto un po' a tutto tondo e cercare di averne il controllo artistico. E sì, ma sempre molto un progetto, se mi hai consentito Andrea, sempre molto raffinato, molto introspettivo, molto delicato in alcuni momenti, input appena accennati in alcuni momenti e più corposi in altri. Sì, ogni brano nasce così da storie personali. Forse anche questo aiuta in un'ottica di rimanere in un ambiente comunque intimo, personale, e poi io Sono molto per questa forma, se vogliamo, un po' poetica del testo. Certo, ecco, una ricerca. Il testo è molto importante. Esatto, un testo molto evocativo. Questo è un po', è sempre stato il mio obiettivo, in un certo senso. Creare immagini, evocare nella mente di chi ascolta. con un forte richiamo anche alla sensualità. Certo, comunque, cioè, già il titolo del disco dà la chiara, cioè dà proprio la fotografia esatta di quello che vuoi esprimere. Esatto. Lo ripetiamo il titolo del disco, non l'abbiamo mai già detto. Rossi intimi ascolti. Ecco, rossi intimi ascolti, i tre momenti, rossi intimi ascolti. Esatto. Sono 13 brani appunto che pescano sicuramente nel personale, certo, nel mio intimo. Il rosso poi richiama il colore della passione. Diciamo che è un disco che ogni brano che affronto, sì, è un qualcosa di personale. E anche di passione personale, sì, rosso, sì, intimo. Sì, l'ascolto a 360 gradi, perché tu ami partire, introdurti nei momenti jazzati, un po' più accennati con un po' di rock, un po' di blues, di introspezione. Questa è la tua garanzia, il tuo biglietto da visita in questi 13 pezzi. Diciamo che mi piaceva l'idea di vestirli tutti nel modo migliore. Per vestirli intendo arrangiarli, certo, e sicuramente offrire diverse chiavi di lettura, chiaramente. Sì, affrontare diversi stili. Ecco, una cosa che non faccio, non ho mai fatto e non farò mai, è quella di fossilizzarmi su un genere o su un particolare stile musicale, ecco. Ma cercare, sì, magari giocare sul tango, giocare, certo, sullo swing, giocare in altri, anche andare a sconfinare in un valzer, certo, magari. Come no, perché no? E ogni brano, secondo me, ha una sua identità, ha un suo mondo, e mi piace tirar fuori quel mondo e diciamo renderlo appunto più pubblico, non so come dire. Sì, certo, certo. Non esasperarlo, però far sentire che questo c'è e non tirarmi indietro e cercare di collegare tutto. Questa è stata un po' l'idea del disco, collegare tutto sia con i testi, con la scelta, va bene, dei testi, delle parole, ma anche con la voce, con l'interpretazione. Cioè, una delle cose più difficili è quella, rendere un timbro riconoscibile di un cantante, cioè il suo biglietto da visita del cantante è quello. E ho cercato di dare una voce a questo disco che potesse unire questi diversi stili con cui ho voluto vestire i miei brani. Sì, effettivamente è proprio così. Quindi un percorso iniziato, abbiamo detto, nel 1996, ma il disco vero e proprio, come è nato, come si è sviluppato la datazione verso il 2007, 2002? Sì, è partito, cioè, tutto dal di lì. Dal 2002. Reg Plus numero 4, Reg Plus numero 2, cioè numero 4 Plus e Reg 4 e basta. Ah. Dopo lo spieghiamo la sigla, cos'è sta roba. Sì, sembra... C'è stata una canzone che ti ha dato il là a fare questo disco oppure no? Che cosa? No, questo disco mi è venuto in mente altre cose. Vabbè, io poi prendo tante traverse. Comunque, no, diciamo la partenza è stata con la voglia di affrontare diversi stili. Questo nel 2000-2001, come produzione mia personale. E ho affrontato un brano, ho scritto un brano che si chiama Che cosa sarà, che non è presente in questo disco. Che andava sullo swing. Ho detto, questo è il mio mondo, questa è la mia cosa, e dal di lì poi ho iniziato a scrivere altri brani. Dal 2002 appunto ho un lavoro continuo fino al 2010, che è poi la data di pubblicazione dell'album. In questi anni ho sempre continuato comunque a collaborare con musicisti, a scrivere canzoni, a capire un attimo la direzione da prendere per arrivare in studio con le idee chiare. E sì, il 2002 è stato il punto. I due demo fondamentali, il Reg come registrazione, possiamo dire. Reg 4, sì, e Reg Plus 4. Non avevano un titolo. Poi, sì, ho cercato di fare qualcosa di un po' più serio con Caffè, diciamo che sono... con Quattro Caffè, esatto. Che erano quattro brani, sempre, certo, comunque sempre demo, però sempre negli anni ho investito sempre un po' di più. E credo che in quel punto mi sono reso conto di altre. Ogni disco è servito, ogni demo è servita per capire che cosa non andava, sia nella scrittura che nel modo mio di cantare. Insomma, è stato un lavoro abbastanza lungo, che però ha portato a quello che era il mio sogno, che era incidere un disco. Che sì, il mio sogno davvero era questo, lasciare un'impronta mia, della mia arte, per quanto grande o piccola possa essere, e sicuramente sincera, questo sì. Qual è stata la tua prima canzone, Andrea? Scritta? Sì. Avevo 16 anni, l'ho scritta insieme al cantante del gruppo di allora, ci chiamavamo Trazione. Dopo abbiamo cambiato Interferenza, ecco. Pensa, che è già in radio. No, il primo brano si intitolava Niente. L'hai scritto te totalmente? No, io insieme a questo mio amico. Sì, perché eravamo un po' figli della Kate Richards, Mick Jagger, certo, John Lennon e Paul McCartney, giustamente. Steve Tyler e Perry, certo. e via dicendo. Plant, Jimmy Page, ecco. Allora, perché non fare un altro duetto della storia del rock? Mi ricordo che scrivemmo... Magari ci sta ascoltando, Tom. No, non credo. Abbiamo scritto questa canzone nella mia stanza, appena finita siamo andati a farla sentire di là mia mamma, che era sul divano a guardare la televisione. Questo nel 1996, è passato di tempo. Un bel po'. Senti, vogliamo far ascoltare già subito qualcosa dal tuo disco? Sì, con molto piacere. Dimmi. No, avrei scelto il brano che poi è quello che è un po' più rappresentativo, se vogliamo, del disco, anche se non mi piace usare questa parola. Diciamo che è il brano in cui ci si ritrovano più orecchie. Il brano si intitola Rosso Colore e ve lo facciamo ascoltare. Sotto la luna ci sono io e ci sei tu. Non serve altro, scaltro ti rincorro per baciarti. Come posso, cosa devo farci con te, mi chiedi tu. Tu che non sai quanto vorrei insegnartelo. Scosso nel cuore da un brivido, io riflesso nel tuo sguardo tardo, e tu resti ancora un po' smarrita nell'incanto regno di confusione, magia, meraviglia e follia, veglia d'antica poesia ci porta via. Stringimi forte la mano, andiamo lontano dove non si può, a capire l'amore degli occhi dentro un giorno d'agosto, sudati su un letto, a scomparire in un campo di grano o all'ombra di un ramo, sdraiati su un telo, e non trovare la fine del nostro sentire, scoprirne il sapore, immersi nel rosso colore. Canto le labbra, morbido invito che porgo sulla soglia, paglia da scintilla che condanna la tua voglia, spoglia, ti abbandoni a me, non ti perderai, saprai cullare la notte, la cercherai. Stringimi forte la mano, andiamo lontano dove non si può, a capire l'amore degli occhi dentro un giorno d'agosto, sudati su un letto, a scomparire in un campo di grano o all'ombra di un ramo, sdraiati su un telo, e non trovare la fine nostro sentire, scoprirne il sapore, immersi nel rosso colore. Si può e non trovare la fine del nostro sentire, scoprirne il sapore, immersi nel rosso colore. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua allora a proporre questo Andrea Grossi che ci è venuto a trovare questa sera per proporre la sua musica, il suo disco che ricordiamo si intitola Rossi Intimi Ascolti. Questa è una canzone che ci piace tantissimo, sai Andrea? Ti è piaciuto? Sì, beh, immagino se l'hai messa all'interno del... Ma no, sai cosa? È bello... Quando uno scrive, mi ricordo la genesi di questa canzone, no? Che avevo due pezzi, un pezzo che era la strofa e un pezzo che era il ritornello. E andai in un posto dalle mie parti, in collina, e riuscii a metterli insieme. E poi ti ritrovi ad ascoltarlo a distanza di 2 anni in radio, tutta arrangiata con tutti i musicisti. Ed è una soddisfazione... Cioè è proprio bello, è qualcosa di emozionante, ecco. Riascoltarla, al di là della radio, riascoltarla comunque vestita, così, da pensare da come è nata, cioè da una frase su un'agenda rossa. Rossa, tra parentesi. Sì, sì, sì, è veramente emozionante. Poi... Pensa se stai correndo con la tua auto e magari sei sintonizzato su una qualsiasi emittente e te la fanno sentire. Cosa ne pensi? Cosa ti fa? Che effetto ti farebbe? Non so, io non so. Questo un po' mi incuriosisce, cioè il sentire con le orecchie degli altri, perché io questa canzone l'avrò ascoltata non so quante volte. Immagino. Però anche solamente in studio, una cosa. Però sì, mi piacerebbe sapere che cosa ne... Cioè è bello soprattutto quando si suona dal vivo, che se le presenti, che le persone vengono a dirti qualcosa. Sì, gli sguardi, sì. Gli atteggiamenti delle persone che sentono i pezzi. Una signora mi ricordo che si è anche commossa una volta. È stato veramente... Ma al di là di quello, cioè anche... Sono belle cose, insomma. La musica dai, ricevi, è uno scambio... Andrea mi diceva una cosa molto bella al microfono spento, adesso possiamo dire al microfono aperto. Originariamente il pezzo era scritto con l'introduzione della fisarmonica. Sì, il tema l'avevo pensato con la fisarmonica. Sì. Poi sì, in studio, come capita spesso, certo. Le situazioni abbiamo aggiunto la chitarra di Giancarlo Bianchetti, che è un grandissimo chitarrista, ha suonato anche con Capossela, con gente... Sicuramente sì, di grosso calibro, più distribuita di me e sicuramente con un'arte molto meglio definita. E niente, abbiamo registrato questo brano e il brano e l'arrangiatore, diciamo, il pianista, che è Livio Camorani. Perfetto. Veramente non era molto d'accordo su inserire di nuovo un altro strumento, quindi... Io invece testardo, e poi sono direttore artistico, mi sono messo due giorni ci ho messo a scrivere uno spartito per fisarmonica e niente, l'abbiamo registrata, gliel'ho fatta sentire e lui ha cambiato idea, ha detto sì, ci sta uno strumento solista, però non ci vedo bene la fisarmonica ma il flicorno, ecco. Così ha scritto un altro spartito, il tema l'ha tenuto perché il tema certo. Ci tenevo, era il mio, comunque mi piaceva molto, mi sembra anche che funzioni, ed è venuto fuori è stato bellissimo lì in sala quando l'abbiamo ascoltata con un premixaggio. E beh, sono belli quei momenti, certo. Perché nasce il brano prende a vita, è bello, una bella sensazione. E abbiamo detto prima con Andrea sempre che possiamo definirlo un brano raffinato ma elegante nella stessa maniera. Sì, raffinato perché è stato inciso con determinati scambi e determinati schemi, elegante perché l'uso del flicorno non è uno strumento così usuale, si usa non spesso, però il flicorno dà una certa sonorità e quello era essenziale. Sì, la ricerca poi sugli strumenti, ho voluto usare solamente strumenti acustici, mi piace un po' questa idea di musica senza tempo, non per rinnegare la modernità, no? Ma semplicemente la spina della chitarra, sì, elettrica. Mi piace che ci sia il legno, che ci sia la corda, che ci siano le unghie, che ci sia questo rapporto come ce l'ho io con la scrittura, cioè di passione al di là delle parole che metto poi sul foglio, però che ci sia qualcosa di intimo, di vero. Non volevo suoni artificiali, per quanto io adori ascoltare brani come quelli che abbiamo poi scelto. Sì, per sì, esattamente, dobbiamo dirlo questo, che gli ultimi tre pezzi sono stati scelti da noi. Sì, sì, sì. Da Andrea. Up to Me dei Jethro Tull, Comfort Linnam dei Pink Floyd e Bohemian Rhapsody dei Queen, cioè, non per snobbare gli italiani. No. Però, poi la musica regala emozioni a 360 gradi, veramente. Ce le regali anche adesso a noi le emozioni con la tua musica? Sì. Sì, posso fare qualcosa dal vivo, visto certamente che in treno mi sono portato la chitarra. Però guarda caso non ho seduto nessuno. Cosa ci fai ascoltare? È il brano che apre il disco. Ovviamente nel disco ci sono più strumenti, come si sarà capito, però tutti i brani nascono chitarra e voce. Ok. E questo è Incontro. E parla appunto dell'incontro fra un uomo e una donna ed è anche l'incontro dell'ascoltatore con il mio disco. Panno gettato con riguardo sul tuo corpo, corpo gettato con riguardo sul mio letto. Metto ogni riguardo nella gioia del tuo spasmo, plasmo la tua pelle come onde sul mio tatto. Ritratto di un colore, vano la passione, androne che conduce alle stanze del piacere. Bere dal tuo calice dolce come il miele, tele di pensieri di getto in bratto, stretto il patto tra il respiro e l'affanno. Vanno le favole d'amore sotto una sottana goffa, stoffa vestita con malizia ed eleganza, danza nelle curve che percorro senza fretta, diritta è la strada, è preziosa quella voglia, sfoglia via le ore questa camera che affitta, stretta all'amore tra la pelle e le tue labbra, ombra di cui una baciura accesa ancora non dispone, copione costume nel teatro sensuale che indossa la tua seduzione. Impone il nostro incontro un'attesa che disperdo, perdo nell'organza ogni parvenza di riguardo, sguardo che ritarda un istante la sua parte, sorte del destino scoper piano le sue gambe, tombe d'abbandono del buon senso e la ragione, rione di virtù e fragranze in cui affondare sempre più. Incontro te, incontro te, incontro te, incontro te, incontro te, incontro te, incontro te, incontro te. Hai sentito? Bravissimo, è stato bravissimo. Più che posso chiamarti un narratore, in questo momento sei stato un narratore in questo pezzo, secondo me. Hai narrato una storia importante, questo incontro tra un uomo e una donna, l'ha narrato con un sottile vena di ironia anche, secondo me, leggera ironia. Sì. Qui volevo fare un richiamo all'erotismo più che altro, sì, in un senso che, sai cosa, adesso non voglio uscire troppo dal seminato, come si dice, però credo che anche solamente l'immagine televisiva che abbiamo da molti anni a questa parte, cioè questo far vedere parti anatomiche femminili in un modo un po' così volgare, vogliamo certo. dire. Cioè, anche solamente l'ultimo film che sta per uscire, ho visto i provini, la prima cosa che inquadrano è il posteriore di una bella ragazza. Ho capito che devono vendere, però... Sì, devono vendere il prodotto. No, in questo disco io lo reputo, e non per ruffianeria, un omaggio alla donna, un omaggio all'eleganza femminile. E questo brano in particolare un omaggio all'erotismo, alla passione, tra uomo e donna, senza scadere nel volgare. Esatto. Ci può essere un pensiero sensuale, un pensiero erotico, senza scadere nella pornografia o in queste operazioni di puro commercio di parti di corpo di bellissime donne, sicuramente. La mercificazione della donna in modo decisamente per vendere. Esatto, non voglio ergermi a paladino, come si dice, però nel mio piccolo mi piace trattare le cose come mi sembra che sia giusto che debbano essere trattate, ecco. Il discorso che tu sei, ami la scrittura, ami scrivere, si sente da lì, si sente come nell'interpretazione. Cantautore sì, però ripeto, un narratore più che cantautore in questo pezzo. Gli altri ci sono delle variazioni, però in questo pezzo abbiamo aperto la finestra in questa maniera. Non so che strade mi porteranno. Dimmi Agostino, che so che sei lì. No, volevo solamente agganciarmi al discorso di Maurizio, nel senso che parlava di te di narratore, l'ho scritto anche su Facebook poc'anzi. Prima ascoltandoti nelle prove, diciamo, di la chitarra, la voce, eccetera, mi sembrava di avere De André davanti, veramente. Lo so che è un paragone estremamente alto, elevato. Guarda, lo so che tu non ti senti, però mi sembrava veramente essere questo cantante così, questo modo di cantare alla De André era straordinario, questo tono di voce, sei veramente bravissimo. Ti ringrazio. Tanto non mi sente nessuno. No, guarda, io... È la croce che si porta addosso chiunque si avvicina a uno strumento, che peggio ancora inizia a cantare. È un riferimento che mi hanno fatto, non è che mi hanno detto sei bravo come, non così, in questo senso, mi ricordi. Sì, sì, sì, sì. Mi hanno detto anche mi ricordi cameriere. Io fra le due, non che snobbi cameriere, però mi tengo tutta la parte di De André senza cattiveria. Sì. Tutto quello che un uomo può fare, sì, stavolta per te lo farò. Ok, però abbiamo citato, eh? L'abbiamo, sì. Bello, la cita che di Andrei qualcosina. No. Dai, sì. Il lampo in un orecchio e nell'altro il paradiso. No, io la volevo sentire cantata. No, vabbè. Comunque, sì, è un riferimento. È un riferimento, certo. Anche perché lo dicevo con un mio amico l'altro giorno, che giravamo per Bologna. E gli ho detto, perché non hai fatto X Factor? Guarda, non sono un interprete, io sono... È un autore. Sì, esattamente. No, non ho quelle doti vocali, ho dei limiti vocali che sono sicuramente nelle zone alte della scala. E i miei punti forza sono nella voce bassa, in questa interpretazione sensuale, o comunque profonda, che poi si trova in sintonia con quello che scrivo, perché mi ci troverei male a cantarle alte queste canzoni, cioè urlate. E fortuna ha voluto, insomma, che le due cose si combinassero, e allora sono andato nella direzione nel giocare i miei punti forti, ovviamente, che è il timbro di voce nelle zone basse, e in questa è una, puramente tecnica, questo appunto. Caso vuole che poi vai a scontrarti con altri artisti come Paolo Conte, De André, che comunque cantano lì, non sono un Sergio Caputo, ecco. Anche Capossela a modo suo comunque sale, non tanto però, soprattutto Caputo, soprattutto altri artisti che usano altre zone della scala. Ecco, io vado a collocarmi in zone più profonde, che profonde poi può avere. Sì, sì, sì, tanti significati. Esatto. Ascoltiamo qualcos'altro adesso? Dal disco? Sì, questo è un bel passaggio di... Una vacanza in quel di Napoli dove ho conosciuto insieme a un mio amico una figura, una figura che è quella del parcheggiatore abusivo. E è un brano al limite fra l'ironico. Tu sei stato? Dimmi. Agostino, mi fai gli scherzi? È il trillo del parcheggiatore. E, no, è un po' ironica, voleva essere ironica, ma il mio intento era anche quello di mettere lo sguardo, di gettare lo sguardo su quel problema che è il lavoro, soprattutto al sud. Anche qui non voglio ergermi a paladino, però mi sono trovato proprio in una situazione familiare, perché ho avuto una ragazza di Salerno e sua madre appunto aveva questo lavoro in nero. Certo. Ma per loro è normale. Sì. Mia madre, pensare che a quell'età, insomma, se lavora in nero, non, assolutamente, non è così da noi. Ma non perché noi siamo più bravi, siamo più belli, semplicemente è diverso. E a me questo fatto mi ha... E c'è un'espressione che mi ha dettato proprio sua madre nel testo. Io avevo scritto pane e miseria tutte le sere. E lei ha detto pane e sudore. E credo che abbia aggiunto una notevole punta di poesia al testo. Ciro l'abusivo. Io sono Ciro e tengo un buon lavoro, adoro darmi da fare, inventare l'occupazione, professione, parcheggiatore, ore abusive sul lungomare, stare a nero assieme alle puttane, pane e sudore, tutte sere, avere famiglia pure da mantenere, cenere sempre sul capo per tutta la vita mi spargerò, pelate senza pensione in faccia allo specchio mi troverò, vecchio nessuna passione aggrappato al bastone mi reggerò, ma cercando tra le tue gambe il sapore della vita ritroverò. Nere le calze tu, penso a mia figlia, meraviglie se qualcuno sa piglia, voglia d'amore, voglia che avanza, panza in cintura, moglie in vacanza. Danza la notte, rinda una botte, cotte d'amore sono tutte sti coppiette, tette rifatte e gonne strette, mette la retro, lui la scopa, me il 3-7, cenere sempre sul capo per tutta la vita mi spargerò, pelato e senza pensione in faccia allo specchio mi troverò, vecchio nessuna illusione aggrappato al bastone mi reggerò, ma cercando tra le due gambe il sapore della vita ritroverò. Ecco il mio vizio, sfizio che spoglia o portafoglio, e voglio farlo, e mo basta, in divieto di sosta, costa un po' caro, ma finalmente adesso, cara, in sto sesso abusivo, mi riconosco, cenere sempre sul capo per tutta la vita mi spargerò, pelato e senza pensioni in faccia allo specchio mi troverò, dentiero il sorriso migliore che posso ti corteggerò, ma naspando tra le tue cosce la mia barba bianca sempre però risplenderà. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Giovedì 20 ottobre siamo con, a parte Blu Radio Veneto, a parte Agostino e a parte Maurizio, ma siamo soprattutto con Andrea Grossi, che siamo qui a farvelo conoscere, a regalarvelo, insomma. Questo è un Andrea un po' diverso, se non sbaglio, rispetto a quello che conosco io. Come canzone sto parlando, Sì, io... deve essere così un disco, secondo me. Deve essere variegato. Secondo me sì, proprio coerentemente con quello che ho detto all'inizio, cioè vestire le canzoni in quel modo, cioè nel modo in cui senti, nel modo in cui loro ti chiedono di essere. Io tutte le canzoni che scrivo sento, ho già immagino le cose che, il vestito che gli vorrò mettere. E Ciro può essere anche, fra virgolette, un po' arrogante, usciamo un po' dall'eleganza, no? In quel senso, però aveva anche un messaggio dentro. Poi ci si può fermare alla prima lettura, che è quella ironica, però io è un brano che ho sempre ascoltato, la prima volta con molta allegria, la seconda volta un po' meno, la terza volta secondo me ha delle chiavi di lettura diverse, che più si ascolta e viene fuori un'altra lettura, che è un po' più amara, ecco, se vuoi. Musicalmente finisce con una musica molto popolare, sì. Assolutamente popolare, quasi bandistica. Sì, è per vendermi i locali, così ecco. Meno musica. Ho capito. No, sto scherzando, cioè. Però, però no, beh, mi piaceva. Pensa, non siamo riusciti a trovare la gran cassa, che la banda della mia città non ce l'ha data. Non ce l'ha prestata praticamente. Sì, quindi il fonico Andrea Scardovi del Duna Studio di Russi, in provincia di Ravenna. Dove è stato inciso tutto. Sì, perché il fonico è veramente l'elemento aggiunto. È un elemento che fa parte del gruppo musicale, è importantissimo. E ha lavorato un po' per rendere quest'idea di popolare, poi gli arrangiamenti di Livio Camorani, come abbiamo detto prima. Ottimi, sì. Gli arrangiamenti di Livio. Sì. Quindi. Abbiamo tirato fuori quest'anima, l'abbiamo messa in mostra. Il mandolino ce lo volevo assolutamente, perché è proprio uno strumento poi della tradizione, certo. Al di là napoletano, insomma, sì. Uno strumento della tradizione. Mischiarlo con la fisarmonica, fare... mi è piaciuto molto. Credo sia il brano a livello sonoro più completo, sì. Di strumenti, ecco, certo. Ce ne sono moltissimi. Mi piace che ci sia questa pagina all'interno del disco. E tecnicamente quanto ci hai messo a fare questo pezzo, Andrea? Ma poco. Poco. Onestamente sì. Ah, beh, non dico al primo attacco, però insomma... Ero lì a Salerno, a Pest un po'. A Pest, bello. Vicino bel al mare. Anche vicino al mare. E io so Ciro, tengo un buon lavoro, adoro darmi da fare e via. E continuo. È venuto. Ovvio, dopo poi ti trovi a limare. Dopo è un lavoro artigianale, però il getto dell'ispirazione arriva e augurati che duri per finire la canzone. Quello. Poi dopo aggiustare, sai, una frase, quelle cose le metti a posto. Però almeno avere abbastanza materiale, delle volte un po' come una poesia, ti può venire 4 righe, te ne possono venire 20. Ecco, in una canzone quando ti vengono 4 righe è difficile. È difficile portare a 20, vero? E c'è una canzone che mi sta dannando, sì. Che ci vado dietro ancora adesso, saranno anni che ci vado dietro, e che non riesco ad andare avanti. La cosiddetta testo. Incompiuta o no? Esatto. Incompiuta no, no, no, non compiuta. No, non prettamente finita come vuoi te praticamente. Sì, esatto. No, ha solamente la strofa. Che non ti convince. So. No, no, non riesco ad andare avanti col testo. È incredibile. Non era? Con le labbra appese al nostro amore, tu mi porterai a ballare. Fino all'ultimo respiro sarò lì per te. E alla gente ferma intorno a noi, che ci invidia e ci consuma, non potrai rispondere, non potrai evitare. Questa non era prevista, assolutamente non era prevista, no. È tutto dal vivo, anche su questo. Sono arrivato lì. Ecco, perfetto. Non potrai rispondere, non potrai evitare. Può darsi che la radio ti ha dato uno stimolo e poi stasera che torni, o domani quando tornerai a Bologna, domani tornerai a Bologna, prima però c'è un concerto da lì. Sì, domani sera, alla Mela di Newton, alla Mela di Newton alle 9.30. Alle 21.30, 21.30 sì. Sarò chitarra e voce live, si dice. E presenterò anche dei brani inediti, perché comunque ho brani per altri... per fare un, insomma, ho altri brani e mi piace poi portarli dal vivo. Poi ovviamente farò anche i brani del disco. Certo, certo. Sì, mi piace andare così. Tu sei il direttore artistico del disco. Sì. Abbiamo un altro direttore artistico che arriva fra poco, che è Alberto Prisco, e salutiamo. Sei il direttore artistico. Cosa vuol dire essere il direttore artistico del tuo disco? Vuol dire che quando si deve scegliere, sei sempre tu che devi scegliere. Ed è un gran casino, soprattutto perché, scusate la parola casino, anche se di questi tempi ce sono tanti. Ben di peggio e ce ne sono tanti. No, devi scegliere tutto. Devi scegliere gli strumenti, devi scegliere i musicisti, devi scegliere dove registrare, devi scegliere le canzoni da fare. L'ultima parola spetta sempre a te. E anche se non decidi, decidi, perché non decidere vuol dire che lasciare andare tutto. Dire lasciamo andare le cose così, non decido, quindi tu decidi che decidono altri per te. Certo. Quindi alla fine decidi sempre tu. Quindi è stato, non lo nascondo, è stato molto impegnativo, stressante come lavoro, però è stato bello. Quando ho avuto il disco in mano è stato un momento di realizzazione personale, la ricerca della felicità, no? Esatto. Siamo arrivati al punto, sì, sono soddisfatto, è un disco che non mi stanca nonostante il tempo passato, insomma ormai un anno. Mentre le altre registrazioni, tutte le demo, i passi per arrivare a... I famosi Reg 4 e Reg 4 Plus, sì, questa è la sigla. Ti sono rimasti in mente questi? Sì, beh, è vero, perché quando ho spulciato sulla biografia di Andrea, sto Reg 4, Reg 4 Plus. Non sono in vendita, non sono stati messi in vendita, no, queste cose. Sono cose che avete fatto proprio, voi. Sì, sì. Però queste cose, cioè, mi accorgevo che a distanza di un mese, due mesi, tre mesi, non mi piaceva più. C'era l'entusiasmo, voleva dire che capivo che c'erano altri passi. Un'altra fase, esatto. Anche adesso sto capendo che ci sono altri passi da fare. Credo che un percorso artistico, se un artista si definisce in maniera onesta e ha un percorso, lo capisce che è un percorso. Non sto parlando di quelle logiche commerciali che dici, ok, questo vende, quindi lo riproduco all'infinito fino alla fine della mia carriera. No, no, mi viene in mente qualche nome, ma non lo cito, non lo cito. Esatto. Non lo cito. No. Secondo me io ho ancora tanti passi da fare, però un passo su un piano accettabile, insomma, in cui posso dire, posso riascoltare questi brani fra del tempo e non vergognarmene, comunque dire non mi convince, ecco, no, credo che a quel punto ci sono arrivato. Riconosco dei difetti e delle altre strade che voglio prendere, però quello che ho fatto, non mi vergogno di quello che ho fatto e sono contento di averlo fissato nel tempo. E adesso? Ah, adesso cosa ci fare... fai? Dal vivo o vuoi disco? Io farei dal vivo. Pensiamo un pezzo dal vivo, dai. Cosa ci fai sentire adesso? Io faccio un brano che secondo me nel disco non ha reso come avrebbe dovuto. Paradossalmente è stato il brano che è stato il brano registrato alla vecchia. La vecchia cosa vuol dire? Come, non so se hai visto Ray, il film di Richards, no? Sì. Quando gli arriva l'otto piste, sì, che è questa meraviglia, e lui si mette lì a registrare tutte le voci dei cori. Ecco, questo brano nel disco è stato registrato live, anche Andrea fonico. Quando gli ho detto che anche la voce la volevo far live, c'era rimasto un po' così. Quindi alla vecchia vuol dire tutti in una stanza, chitarra, voce e fisarmonica, quindi io e il mio fisarmonicista, perché è un brano che ha dentro una magia, secondo me, e è fatta di intenzioni che devono, dai due musicisti, non riuscivamo a farla, fra virgolette, fredda, nel senso eseguita perfettamente, purtroppo la diretta devi essere... Non perché non ha fatto un buon lavoro il fonico, semplicemente c'è stato un problema di come ho suonato io la chitarra e di conseguenza nel microfono della chitarra è entrata la fisarmonica. Questo fatto di essere nella stessa stanza, no? E quindi, diciamo, la resa sonora non è, secondo me, a livello delle altre, ma la canzone, l'esecuzione del brano, ne sono felicissimo. Blu Radio Veneto. Corinna non è francese, è solo una canzone dal sapore di campagna, di uva colazione, del sole che tramonta e scompare nella terra. Corinna ha 30 gatti che cantano coi grilli, sa di pioggia che ti bagna e di sogni appena infranti, è la dama del risveglio, nell'ideale mio buongiorno. Ingenua e delicata, del suo sguardo te ne accorgi, che Corinna quando ti guarda è qualcosa di importante, è come averla addosso, profonda sulla pelle. Corinna non ha pretese, è solo innamorata, te ne accorgi facilmente da quell'aria un po' svanita che barcolla nella stanza, così semplice e tranquilla. Sono lunghi i suoi capelli castani, quasi ricci, e a Corinna sempre un po' mossi, cadono sulle spalle, sul maglioncino azzurro, come sogni attraenti, si fermano lì. Corinna scopre le gambe, ma lo fa senza malizia, è quasi provocante, ma d'intima bellezza, di un sorriso che trabocca in ogni circostanza. Perché Corinna non è francese, ma sarebbe da guardare, semplicemente per 3 giorni, e poi ricominciare, senza soste un giorno ancora, per favore. E ammirarla vestita solamente di speranze, della candida pelle bianca, bianca come il latte, nel privilegio di un amore da candele accese. E Corinna non è francese, per fare un paragone, nel descrivere il suo fascino ci perdono le parole, si dovrebbe dare al vino certo più di un'occasione per fantasticare un po'. Oh. Corinna è viva e semplice, sensuale e intima, sognante e unica, mentre sale in macchina e con la mano saluta e lascia cadere un ciao. Ciao, Corinna. Anche le parole vene sono, dentro di esse sangue scorre quando le parole si uniscono. La pelle della carta s'accende di rosso come nell'ora dell'amore, la pelle dell'uomo e della donna. Rosso, rossissimo il rosso, cancellalo col nero. Sì, col nero. Fa un foro nel foglio, getta dentro i chiodi martello in nero. Ah, rosso ucciso, la musica profonda. Parole di Giannis Ritsos. Le hai volute mettere perché? Beh, ha influenzato molto la mia scrittura. Ha una raccolta che consiglio, che si chiama Erotica, appunto. È un poeta greco, fine anni 70, inizio anni 80 comunque. E in questa raccolta delle poesie veramente che mi sono piaciute molto, e in cui c'era questo costante richiamo al rosso, è un modo di scrivere che sì, mi ha sicuramente influenzato. Oltretutto queste due poesie trattano due aspetti che sono nel disco. Sia l'aspetto prettamente musicale che l'aspetto, diciamo, della scrittura. E questo accendersi, no? Le parole sulla carta come la pelle dell'uomo e della donna. Mi sembravano veramente... regalavano la giusta identità al disco, ecco. Sì, mi sembravano appropriate. Ecco. Tu hai... Prego, dimmi. Tu hai scritto diverse canzoni per le donne, deduco insomma, Loredana, Lisa, Corinna. Sì, sai perché? Qualcuno che scrive canzoni come me, no? E nella sua testa si fa tanti viaggi per quando sarà famoso, soprattutto quando è giovane. Ma quando sei giovane pensi che un giorno arriverai a pubblicare dei dischi e pensi che ti chiederanno di pubblicarne abbastanza regolarmente, e l'ispirazione non è una cosa che viene così facile se è sentita, se è sincera. Se no, scrivere una canzone, non per vantarmi, ma una canzone si scrive in 5 minuti veramente. Poi la qualità è ovvio, se l'artigiano ci mette un tot a fare un cavalluccio c'è un motivo, se una fabbrica ci mette un minuto a fare quello che l'artigiano ti fa in 2 settimane, 3 settimane c'è un altro motivo, insomma una questione di qualità. E allora io, visto che questo produttore fantomatico e contratto discografico non arrivavano, ho detto, beh, mi tiro avanti, immagino di fare dei dischi. Uno di questi dischi si sarebbe dovuto chiamare Amori e Semplici Incontri, appunto con tutti i brani dedicati a ragazze che ha conosciuto. Nel disco, che raccoglie un po' tutti i miei dischi che non vedranno mai la luce, c'è una sintesi, quindi ci sono 3 brani dedicati di quel disco, ecco, come ci sono 3 brani di un altro disco o 4 di un altro. Certo, certo, capito. Sì, ma non sono comunque storie d'amore. Sono anche solo il pensiero. Sono immagini, allora, di donne che tu hai conosciuto? Sì, sono pensieri d'amore. Pensieri d'amore nei confronti di queste donne. Sì, anche ragazze, donne che ho conosciuto di sfuggita. Certo. Tutti ci vedono la malizia, no? Allora, invece no, non è né una cosa né l'altra. Cioè, non è né che ci sono andate, cioè ci sono state... Sì. O né che sono andato in bianco, ecco. Sai, alla fine si riduce sempre a quello, al 2D picche o... No, non è così, è un'idea un po' più alta, è quello che l'emozione che del... ti trasporta, sì, trasmette il romanticismo. Esatto, esattamente. Romanticismo. A proposito di questo, la versione che hai fatto di Corinna è molto bella, anche se non è francese, ha qualcosa di francese, e idealmente la possiamo dedicare a una ragazza, alla Martina, che ti sta ascoltando da lontano da Mestre. Quindi, Martina non è francese, è solo un viaggio per Mestre. Ecco, in mezzo alla campagna con un po' d'uva sul cruscotto. Ecco, ok, va benissimo. Con la luna. Anche la Maria Teresa, allora. Maria Teresa a 30 gatti. è stata qui. No, vabbè. Quindi non è francese, però qualcosa di francese aveva questo pezzo, secondo me. Appunto, è il contrasto. È il contrasto, esatto. Io una volta ho scritto, la bellezza nasce dal contrasto. È vero, è giustissimo. Poi io sono un amante del contrasto. Mi piace mangiare dolce e salato insieme, per dire. È bello il buffet che quando c'è sia appunto il dolce e il salato, passo dalle pizzette al bombolone. Ah, perfetto. No, vabbè, dai, parte va bene. Però no, il contrasto, credo che il contrasto, quando riesci a metterlo... In musica, e non sì, solo in musica. Non solo in musica, credo sia qualcosa di... Non so, veramente nasce la bellezza dal contrasto, un certo tipo di contrasto ovviamente, però sì... Non so, ci credo in questa cosa. E come musicista avevi dei contrasti negli arrangiamenti, nel modo di proporre le cose? Contrasti nel senso musicale, non nel senso cattivo, nel senso di parlare fra di voi. Sai, alla fine io sono... devono vestire i panni dell'umiltà. Io ho sempre ascoltato moltissimo gli altri musicisti. Cioè, bisogna avere una dose in questo, perché rischi di che il tuo prodotto venga snaturato. Però non ascoltare, rischi... dall'altra parte che i consigli buoni che possono, la parte buona che può venire da questa esperienza che loro hanno, tu non l'ascolti. Certo, è vero. Quindi bisogna anche lì avere un giusto equilibrio e non lasciarsi né prevaricare troppo, quindi essere tanto che basta presuntuosi, convinti di quello che si sta facendo e del discorso che si vuole portare avanti, però essere capaci di... Io ero innamorato della fisarmonica sul rosso colore, però ho capito che il flicorno andava meglio. Era a favore del brano. Avrei voluto un'altra ritmica per incontro, e invece ho capito che quella che avevano scelto. Ho tenuto duro su altre cose, perché ero convinto che funzionassero. E mi sembra che sia venuto un bel equilibrio. Sì, un equilibrio tra i diversi pezzi. E tu l'hai citato prima... essendo direttore artistico, dovevi anche dare l'ultima parola alle cose. Sì, sì, è dura. Cioè, noi stiamo scherzando, cioè, però non è semplice. Si scherza, dura. Parlando seriamente. Esatto, si scherza parlando seriamente, e ne ha detto una cosa giusta. Cioè, è dura, è difficile, perché il disco deve uscire, e quando è uscito, non si può più ritornare indietro. Esatto, quindi è meglio che tu sia convinto. Chiaramente sì. Ma sai quante volte prima di chiudere gli occhi ho ripensato come si sarebbe potuto fare un brano? Dei brani sono stati anche reincisi, cioè ho richiamato i musicisti per rifarli in un altro modo, con un'altra intenzione. Si dice intenzione. Adesso non è come suonare un brano pop, non per elevarmi, però quando suoni con musicisti che danno un'impronta, che suonano, quindi che non hanno uno spartito da seguire, che non c'è il canone pop del strofa, ritornello, fil di batteria per arrivare al ritornello, crescita dinamica di un certo, ho scelto dei musicisti che comunque lo fanno per professione e che respirano, questa è una cosa bella, e hanno fatto respirare i brani, quindi è un incastro, e sono veramente molto soddisfatto del lavoro che tutti loro hanno fatto. Sì, assolutamente. Se hai voglia e tempo possiamo citarli tutti, visto che sono tanti, ma se okay. Ti li ricordi. Allora, Livio Camorani, pianoforte e arrangiamenti. Alcuni arrangiamenti poi sono stati fatti anche da un altro pianista, Luca Bonucci, che nelle altre registrazioni, nell'arrivo a questo. Gianluca Ravaglia al contrabbasso, Marco Frattini alla batteria, poi abbiamo Giancarlo Bianchetti alla chitarra, Claudio Zappi ai fiati, Maurizio Piancastelli alla tromba. Poi adesso arrivano le parti difficili. Dimmi. Allora, Stefano Martini al violino, Fabio Gaddoni al violoncello, sì. e il mandolino non me lo ricordo. Egidio Collini e Manuel Vasile alla fisarmonica. Bravissimo, li hai citati tutti. È stato bravissimo. Non è mica semplice. Sai quante volte ho dovuto chiamare al cellulare? Bene, immagino. No. E poi la grafica, perché poi mi sono occupato anche della grafica. Quindi, A proposito, c'è una bellissima immagine di gambe di donna. Sì, la foto è di Luisa Veronese, di Ferrara, lei. E all'interno, ricordiamo, ci sono tutte le foto, sì, di questo libretto. Volevo ringraziare Federica Magliacane, che la mia amica fotografa di Roma, che è anche autrice dei due ritratti, gli unici due. Non ho voluto mettere la mia faccia sul disco, cosa che fa molto stile X Factor, amici. Sai, ho notato una volta in un negozio di dischi, erano appena usciti i due, avevano la stessa foto, uguale sul disco, da Amici, credo, da X Factor. Era incredibile, uguale, la stessa, identica espressione, foto, uguale, stessa ombra. Immagino, sì. È un po' inquietante. No, li ho voluti mettere dentro. Sì, ho voluto dare anche questo rosa un po' così, il colore della pelle. Insomma, il richiamo grafico è proprio a qualcosa di che si può toccare, di caldo. Sì, di, ma l'indice, vero, la ricerca vivo. Della bellezza, come tu, sì, hai citato nel disco, sì, nel libretto, è quella. Ricercare la bellezza. Esatto, sotto tutti i punti di vista praticamente. Adesso ci ascoltiamo un'altra immagine di donna, o vuoi cambiare la scaletta? No, volevo ascoltare. No, non ti metto in difficoltà. Sì, dai, dimmi cosa vuoi ascoltare. È lì dietro con l'accetta, voi non lo potete vedere. Dimmi, no, cosa vuoi ascoltare. Io sono su Caffè adesso. Su Caffè. Sì. Se vuoi che ascoltiamo Caffè, ascoltiamo, sì, Caffè. Sì, Caffè credo il mio brano preferito del disco. Per com'è. Okay. Semplicemente per questo. L'ascoltiamo. Incerti, corti, decisi o distratti, tratti discreti, parole d'amore, soffio lontane, leggere, cadere giù dalle scale in fondo al tuo odore. Fermati a riposare ancora un po', qui sul mio cuore, resta, fatti toccare, come potrei lasciarti andare senza un altro abbraccio e un caldo goccio di caffè. fragili e intensi, sogni rubati o concessi, gessi sparsi, colorati pensieri d'intenti, fanti erranti di giorni sottili e brevi racconti d'amore, odore d'incenso e candele, di favole e fiabe. Fermati a riposare ancora un po' qui sul mio cuore, e adesso lasciati andare, non lo vorrai mai dimenticare, il rosso del tuo sapore sulle tue labbra di caffè. Fatti toccare, come potrei lasciarti andare senza un altro assaggio e un caldo goccio di caffè. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Un caffè a quest'ora ci vuole, sono le 22 passate da 2 minuti, questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita, in questo caso con Agostino Spolaore e con Maurizio Calzavara, a tenervi compagnia ancora per circa 30 minuti, dopo vi ricordo l'appuntamento con Alberto Prisco e la sua classifica, la sua musica rock, quindi un appuntamento da non perdere. Abbiamo in studio un grande artista, si chiama Andrea Grossi, ci sta presentando il suo album Rossi Intimi Ascolti, ma ci sta anche regalando tante tantissime emozioni. Vi ricordo il nostro numero di telefono in studio, lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda i vostri sms ve lo ricordo come sempre 346 23 20 033. Le nostre frequenze 88 700 94 600 MHz in modulazione di frequenza. Prima non ve l'ho detto, abbiamo anche il sito www.bluradioveneto.it e abbiamo anche le due pagine su Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto oppure Blu Radio Veneto Rock Wave. E a proposito di dati tecnici, Andrea, non abbiamo ancora detto i tuoi, cioè il sito, Facebook, eccetera, eccetera. Ah, diciamo che io sono su MySpace, anche se ormai è diventato qualcosa di arcaico. Sì, sono pienamente d'accordo. Diciamo Facebook, Andrea Grossi, mi trovate lì. Sono lì che accarezzo dei cuoricini, proprio in stile sembra un romantico. Sì, in stile molto romantico, sì. Basta, direi quello. Poi se digitate Andrea Grossi, comunque Imola Musica, insomma, mi trovate. Se volete acquistare il mio disco, che ultimamente le vendite dei dischi vanno fortissimo. Infatti è una cosa, è il primo sì, esatto, settore dell'economia italiana che è al top, siamo in piena come si dice espansione sì. E sono tutti emergenti, sì, scommetto, esatto. E no, niente, la mia mail, che la trovate comunque su internet, è andrea.grossi@inwind.it, nel vento. Wow, Bob, come si dice. Sì, comunque se volete, come si usava quando non c'era il cellulare, addirittura quando non c'era neanche il telefono in casa, che la gente comunque ha continuato a vivere, riuscite a trovare anche il modo di avere il mio disco. Bene, parlando di questo pezzo Caffè che prima abbiamo ascoltato, è un valzer praticamente, un bel piano finale. Poi questo, giustamente tu hai detto al microfono spento, che è l'unico pezzo che viene sfumato, che sfuma. Perché l'ho voluto fare così? Mica sono direttore artistico per niente. No, a parte che sancisce una fine primo tempo ideale nel disco. Nel disco, come si usava una volta l'LP, se ti ricordi, quattro pezzi da una parte e quattro pezzi dall'altra. Io ho contattato un vinilificio. Ah, volevi fare il disco. Però costava onestamente troppo. Troppi soldi. L'avrei fatto per me e basta, e sarebbe stato qualcosa per me e basta. Allora ho deciso di non farlo. Però idealmente sì, alla fine io sono molto attaccato al vinile. Poi alla fine la prima musica che ho ascoltato, fin da piccolino, girava su vinile. E ho sempre sognato fare un disco. Perché un disco lo vedo come un'opera d'arte ancora più accentuata del CD. Cioè il CD alla fine è quello che è entrato nel supermercato. Il vinile invece ti dava la possibilità, innanzitutto artisticamente, di inserire anche fotografie, avevi più spazio per proprio dare la visione artistica. Per l'arte, quindi, sì. Esatto, anche un dipinto. Molti album vecchi hanno dipinti, mi ricordo Aqualung dei Jethro Tull, per dire. Ti ricordi quelli, esatto. Tutte le tavole di Roger Dean per gli Yes, quindi. Insomma, roba favolosa. Erano, esatto, e io avrei voluto farlo il disco. Per un momento ho anche pensato di stampare solo dischi, però era inaffrontabile. Un disco ti dà più l'idea dell'opera d'arte che un CD. Il CD è più un prodotto commerciale, però ovviamente non è che possiamo essere anacronistici. Certo, cioè, certo, bisogna andare avanti. Quindi, sì, esatto. Però ritornando al Caffè, l'arrangiamento, sì, questo è ancora il ritornello nel senso positivo del termine. Un pezzo che, con un altro mi pare, è molto accattivante, ti prende immediatamente nella strofa del ritornello. Poi c'è questo piano che ha un certo senso alle cose, secondo me. L'arrangiamento, l'arrangiatore che è anche il pianista praticamente, sì. Livio Camorani, Camorani, ha fatto un bellissimo lavoro di arrangiamento. Non so cosa darei per rivedermi la prima volta che ho sentito questo brano suonato dai tre musicisti, perché è stato registrato in forma di combo live, combo jazz live, sì. Quindi piano, contrabbasso, batteria e io alla voce. Certo. Così è stato registrato tutto il disco, il resto degli strumenti sono stati aggiunti dopo. Quindi c'è una componente live di fondo, che è il trio, e poi gli altri strumenti ad aggiungersi. Ecco, è stato un percorso in itinere. Certo, certo. E anche per questo poi i brani sono così differenziati. Perché non è captano stato momenti diversi praticamente. Sì, sì, sì, sì. Sono stati pensati in momenti diversi e affrontati in momenti diversi. E è stato, credo, un punto di forza del disco questo qui. Benissimo. Adesso io direi di fare qualcosa dal vivo. Se ok, tu sei. Sì, io direi si parla di concorsi, no? Io questo brano dal vivo lo presento sempre così, lo farò anche domani sera alla Mela di Newton. E diciamo che noi cantautori del giorno d'oggi, che ci ispiriamo a quella la scuola di André, Guccini, Conte, Capossela, Graziani, perché non ricordare anche bravissimo, un chitarrista straordinario. Esatto. Insomma, ci ispiriamo comunque e poi alla fine io ho ragionato, anche i Rolling Stones sono cantautori, alla fine è semplicemente cambiano il vestito alle canzoni, cioè hanno un'impronta rock, no? Però alla fine scrivevano la canzone, chitarra e voce. Vabbè, che te dice l'hai sempre fatto, chiaramente. Esatto. Vabbè, una coppia, diciamo, la coppia più famosa direi italiana, è sempre stato il grande duo Mogol. Lucio Battisti, esatto, dove Mogol scriveva le parole e Battisti col suo talento straordinario, sconfinato, riusciva a mettere in musica in un modo, secondo me, veramente incredibile. Io da giovane, scapestrato, incosciente, ho deciso di andare proprio a togliere la parte migliore forse della produzione, insomma, Mogol Battisti, che è quella appunto della musicalità del brano. E ci sono questi concorsi sparsi in Italia per giovani cantautori e spesso ti chiedono di fare una cover per attirare semplicemente più pubblico in piazza, perché il tuo brano originale, insomma, non è che sia conosciuto, quindi è meglio fare che ognuno rende tributo a Battisti. E io scelsi due brani senza conoscerli, solamente per le parole, mi piaceva i testi ne scelsi una e non mi ricordo, un'altra canzone insomma del duo, insomma, e le rimusicai completamente, cioè misi nuove note alle parole. Vi faccio ascoltare una. E ascoltatela perché l'ho sentita prima, è stupenda. Radio Veneto. Tu non sei molto bella e neanche intelligente, ma non ti importa niente perché tu non lo sai. Tu vivi per ballare, sei in cerca dell'amore, ma quale amore ancora non lo sai. Io ti apro il mio cuore, tu fai finta di ascoltare, ed intanto guardi in giro, vuoi qualcosa da mangiare. Ma perché proprio tu nella mia vita che con te, prima ancora di cominciare è già finita. Ma perché proprio tu con quella faccia è possibile che mi piaccia una come te? Dai, di là, di là. Io cercavo una ragazza con un fiore tra i capelli, tu sorridi a brutti e belli e un giardino in testa hai. Ti accontento in ogni cosa, tutto ciò per una rosa che non ha nessun profumo, che è di plastica ormai. Io ti apro il mio cuore, tu fai finta di ascoltare, ed intanto guardi in giro, vuoi qualcosa da mangiare? Ma perché proprio tu nella mia vita che con te, prima ancora di cominciare è già finita. Ma perché proprio tu con quella faccia è possibile che mi piaccia una come te? L'hai proprio accarezzata questa canzone, di la verità, che l'hai proprio voluta entrare dolcemente. Sì. Sai, quando la suono dal vivo, è una canzone che ha proprio questa atmosfera, cioè è marcatissima, è evocativa come pochissime altre, e funziona chitarra e voce anche per questo, perché la gente, anche se non la conosce, viene subito, secondo un'interpretazione che ne do io, sente forte questo riferimento, questo mondo che gli viene suggerito, e ci si riescono a entrarci dentro molto facilmente, e questo permette uno scambio molto forte di emozioni. Sì. Sì, anche sì. Se poi il testo alla fine è molto ironico, no? È la potenza dell'atmosfera in questo caso. Io ritengo che qualsiasi canzone, se tu riesci ad entrarci dentro, ti provoca queste sensazioni, cioè queste emozioni, insomma. Sì. No, sì, è così. Il problema è fare entrarci. certo. Sì, assolutamente. E tu, giustamente, come hai detto Agostino, ci sei entrato in punta di piedi perché ne hai dato una versione tua personale, ne hai dato una versione della musicalità che ami. Al di là di questo pezzo che Battisti lo proponeva molto, con molta grinta, con molta passione, con molto patto, tu l'hai proposta nel tuo patto, nel tuo modo di vedere le cose musicalmente parlando. Sì, era... Non so, io ho letto il testo e ci ho visto questo, cioè ho visto un brano ironico. Sì, anche se Battisti la cantava con molto vigore. Sì, però io l'ho visto in un altro modo. Beh, ovvio, Battisti era anche, non voglio bestemmiare, però figlio del suo tempo, nel senso che erano comunque tempi di, insomma, sì, c'era il rock. Certo, c'era era, il rock. Era la rivoluzione, era la musica che ti staccava dal Claudio Villa, cioè da Modugno, anche se tu New York. Lo mettiamo là. È sempre difficile, sì, quando si parla in questi termini. Comunque, credo di sì, non poteva essere non voglio dire, io l'ho fatta a mio modo, forse con, sai, adesso abbiamo tutti questi generi che sono ormai lontani, cioè ormai non c'è molto più tanto di nuovo di un genere, anche il rock, diciamo, cioè, non è che fosse poi un genere, sì, c'è stata la rivoluzione del rock, ma semplicemente è un blues, sì, il rock parte sempre da là. Insomma, non, poi ovvio, è stato deviato, siamo andati su Pink Floyd, Creedence Clearwater Revival, è diventato un cliché diverso. Ecco, adesso abbiamo più una, io la vedo più come una scelta, no? Che hai tanti gusti in più di quelli che magari avevano negli anni 70. Ecco, questo sì. E a me piace scegliere questi diversi gusti. È ovvio che quando scegli un gusto poi vieni rimandato immediatamente in una certa... Andrea, io, cioè, ti chiedo, come nascono le tue canzoni, cioè i testi delle tue canzoni? C'è un qualcosa che ti dà un input? Ispirazione, quella, guarda, al momento. Quella non c'è una, meno per me funziona così. Io ho una ispirazione molto limitata, nel senso limitata in quantità. È tanto che non scrivo un brano, per dire, mesi. E ho avuto molti periodi di buio. Dipende, lì ci sono artisti che riescono comunque ad avere una buonissima produzione musicale, qualitativamente parlando, e piena, cioè nel senso scrivono molte canzoni, anche amici miei, cioè gente che lo fa al mio livello. Io invece non sono così, non ce la faccio, deve venirmi la frase, deve essere un'ispirazione che arriva da non so dove, poi molto spesso mi stupisco di quello che scrivo, tanto che faccio fatica a riconoscermi, però effettivamente le ho fatte io, quindi sono contento di avere questo che riconosco come un dono, che non ritengo un dono mio, nel senso non sento che mi appartiene, anche perché se mi appartenesse riuscirei a farlo tornare a comando, non è così, arriva quando arriva, e possono passare mesi, possono passare tre giorni, non si può programmare assolutamente, no, fortuna che ormai ho già un repertorio abbastanza grande. Sì, però c'hai già un sacco di canzoni per il disco successivo. Sì, però pronto? Mi sembra sempre poco. Vorrei sempre scrivere, perché è divertente poi, sì, avere una, certo, nuova canzone. Il primo a divertirmi come ascoltatore sono io. Beh, certo, immagino. Vabbè, però posso dire di aver già scritto abbastanza canzoni da almeno un disco, di averlo fatto, poi di poterne fare un secondo. Che verrai a presentarlo qui? Sì, sì, speriamo di arrivare a fare anche questo. Tu hai prima citato il Combo Jazz Club, ma il Combo Jazz Club è una serie di, cioè sono tre musicisti, ma continuano a girare con te o casualmente, o è un esperimento che continui a portare avanti? O... Io l'ho chiamato Combo. A Combo. Combo per dire tre musicisti che suonano all'interno del disco live. Sì, semplicemente io ho dei musicisti che suonano con me fissi. Il fatto è che sono ovviamente soggetti a serate, certo, che si possono, certo, fare, quindi se si va in studio i musicisti da chiamare li ho, anche sono ragazzi che sono dentro al progetto, però ovviamente non c'è più quella logica di dire andiamo fuori col gruppo, ci danno 200 euro, ci andiamo in 5 perché siamo contenti così, è diventata molto più professionale. Io faccio sempre riferimento a Ray, quando diventa imprenditore di se stesso, no? Sì. Arrivi in ritardo, paghi. Certo. Devi essere presente, devi una sorta di professionalità. Ecco, io i miei musicisti li ho sempre trattati in modo professionale, cioè paga, anche forse anche troppo bene, nel senso, visti i tempi che corrono, però mi sembra che sia giusto che una persona che fa qualcosa con la stessa passione con cui la faccio io, ecco, gli venga riconosciuto. Certo. Indubbiamente, se no non potrei dire poi lamentarmi se a me non mi riconosco, anche se non mi piace lamentarmi, però mi piace riconoscere alla gente il lavoro che fa, e al di là del rapporto personale, ecco, c'è un rapporto professionale, questo l'ho sempre voluto, l'ho sempre cercato, appunto per mantenere anche un controllo della mia opera, di quello che faccio, e patti chiari. E a me ci sta lunga, come si dice. Sì. E il rapporto di... Io lo vedo molto come sì, in maniera professionale. Ma è giusto che sia così, uno che è un professionale, è giusto che sia pagato, nel senso che deve avere il suo, corrispettivo, uno che fa un... Anche perché litigano gli amici. Appunto. Questo è vero. Se no, cosa si litiga? Esattamente, esattamente, ecco. Questo è vero. Fa parte dell'ambiente musicale ed è giusto che sia così, assolutamente. Allora, abbiamo una decina di minuti, io direi di far ascoltare la canzone che chiude il disco. Sì. E poi ci ascoltiamo qualcosa dal vivo, di nuovo, ce l'hai promesso. Sì, sì, assolutamente, mi sa che dobbiamo andare di fretta. Il brano si intitola Ritorno ed è dedicato all'immagine di una ragazza che ritorna, diversa, ma c'è questo, devo tagliare, non riesco a fare una descrizione così breve. Ritorno. Intermittenti passeggiate tra i denti della sera, corriera nella pioggia di un addio a piedi scalzi, sbalzi di mercurio, la me cercano la resa, difesa lo spirito annega in un gioco di specchi, mi incalzi, alzi ali che si spiegano feroci, voci sugli scudi. A difendere un passato aggrovigliato, resto al tuo nuovo ritaglio, veglio disturbato dal riflesso che si espande violento all'interno. Inverno di cuciture corrotte, ora basta, cambiamo d'abito alla sorte. Coperte si spalancano, rimboccate dal sonno, panno amaro, persi sul cuscino, vicino ai desideri, pensieri che abbandono, rincorrono il tuo seno, piccolo d'avorio. Emporio di un profumo a cui violento mi affacciavo, restavo a respirarlo sul balcone ad occhi chiusi, confusi dalle vele, stese al tempo ad asciugare, amare le tue mani, dolci come il miele, lasciarsi inebriare nel giorno eterno, il respiro si infrange. Nostra sorte. Corte ad ogni goccia, scompiglia la mia faccia, straccia ogni colore e ritorna bianco e nero, sentiero sul tuo corpo che seguo per davvero, sincero fino in fondo, nel buio della mia stanza, credo al tuo ritorno. Thank you. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Degna chiusura del disco con un tocco di jazz. Sì, assolutamente. Hai voluto chiudere proprio sì. in una maniera molto elegante, molto sì. raffinata. Io adoro Chet Baker. La tromba c'era. La tromba secondo me è proprio uno strumento, proprio un suono dell'anima, mi sembra. Già come idea, già concettualmente, così. È straordinario, sì. Ha un gran fascino, secondo me. Dobbiamo ripetere anche il nome di chi l'ha suonata, la tromba. Maurizio Piancastelli. Esattamente, che merita assolutamente. Sì. Bene, siamo arrivati alla fine. Alla 22, fine. 25, facciamo gli ultimi resoconti. Sì. Allora, domani sera ci sei di nuovo. Sì, qui. Sono al Melody Newton qui a Padova. In diretta. Sì, live. Con la mia chitarra. E vi invito a venire ad ascoltare il concerto. Che è assolutamente gratuito, quindi basta. Sì, credo. Mi ricordo, mi sembra che sia il Circolo Arci. Sì, sì, sia sì, una sì. piccola però, ovviamente il Tesser Arci, che ha vale su tutto il territorio nazionale per tutti i concerti, per sostenere quello che non c'è più, un po' quello che cerca di scomparire, l'associazionismo, no? Queste persone che si mettono insieme e uniscono gli sforzi per fare qualcosa, perché credono in qualcosa, ecco. È una bella cosa far musica, mettersi insieme sì. per far musica è una cosa meravigliosa. Sì, sì. Comunque mi piace quando le persone si mettono insieme e uniscono gli sforzi per qualcosa che è di tutti poi. Hai fatto anche te il tuo progetto e mettersi insieme a fare per il tuo progetto è una cosa assolutamente similare. Sì, così. E il tuo sito? I tuoi recapiti, insomma. No, io sono su Facebook. Ho abbandonato il sito andreagrossi.com perché non mi piace essere sovraesposto, onestamente. Quindi, se qualcuno volesse contattarti, Facebook. Sono MySpace, su Facebook c'è la mia mail. La mia mail la si può trovare su MySpace, quindi tutte pagine comunque che si possono comunque consultare, ecco. Quindi benissimo. Si trova. Il contatto di Andrea Grossi si trova. Posso farti un'ultima domanda, Andrea? Sì, certamente. Chi è Andrea Grossi? Oh, mamma santa. La domanda... non ce l'ho, non sono bravo come Paolo Conte a rispondere. Aspetta che invecchio ancora un po'. No, Andrea Grossi è... No, veramente, non troppo riesci, lunga, no, okay. Perché... No. Va bene. Devi farmela all'inizio, sì. Io ci pensavo. No, a parte gli scherzi, Andrea, noi ti ringraziamo veramente di aver accettato. Sono io a ringraziare voi perché... È stato un invito. È stato un parto lungo quello di averti qui, perché quanto tempo è che ci scriviamo? Un anno? Sai, venendo da Imola, sai, non avendo la ragazza a Padova. Va bene, noi ti aspettiamo per il disco nuovo, quando sarà il momento. Sì. E ti ringraziamo Blu Radio Veneto a nome mio, a nome di Maurizio e del nostro direttore voi. Artistico Alberto e di tutto lo staff, ti ringraziamo. Io ringrazio voi a nome di Andrea Grossi. Ecco. E io vi do della sua chitarra. Certo. Eccola qua. Io vi do l'appuntamento a lunedì, che sarò in regia con Stefano per una cantautrice americana, ma poi per quanto mi riguarda ci sentiremo giovedì prossimo con Giulia Daici, è una ragazza, ha fatto un disco di musica pop, quindi l'ascolteremo, una ragazza simpaticissima e molto molto brava. Maurizio, tu invece? Io ci sarò lunedì per vedere e sentire la cantautrice, poi martedì avremo i Bluegrass. E poi mercoledì avremo un'altra band che non ricordo, ma sicuramente martedì è un avvenimento molto interessante con il Bluegrass. Bluegrass. Esattamente. E mercoledì te lo dico subito, eccolo qua, abbiamo Andrea Giannessi, quindi un cantautore molto interessante. E giovedì ci sarai te, chiaramente. Altra settimana piena di musica live. Assolutamente live, ancora live, perché bisogna suonare, Andrea, bisogna suonare sempre. E adesso ci salutiamo con... un inedito, direi. Perfetto. Ho deciso di scrivere un brano... che parlasse di altro, della nuova produzione, quella che vorrei inseguire, si intitola Forte sul petto e ripercorre un po' le tappe, una crescita dell'individuo all'interno della società e di come la società purtroppo tende a spegnere l'entusiasmo. Grazie di tutto e alla prossima. Ciao. Ciao. Hai 18 anni e un diploma che stringi con forza nella mano destra, ma non ti soddisfa, continui a studiare, a darti da fare, a cercare perfino una ragazza per bene da portare all'altare e che possa coronare il tuo sogno d'amore, se non proprio in eterno almeno, fino al prossimo inverno. In fila c'è un padre per quel lavoro sottopagato e determinato a un travaglio da interinale, o la vacanza domiciliare da cassa integrato, e il parto di un figlio che sta ad aspettare ed è già indebitato ancor prima di uscire a respirare il benvenuto che gli han preparato. Poi sul tuo divano col telecomando c'è un telegiornale all'ora di pranzo, coi servizi che sembrano documentari, e in Europa son nostri più bassi salari. Sembra tutto normale, non manca neppure la tragedia sociale, che un po' di dispiace del vicino impazzito o di qualche soldato morto ammazzato in missione di pace. Mi batto forte sul petto e ancora sto zitto. In primo piano alla televisione c'è un altro immigrato vicino a un gommone sbarcato, è già clandestino come il tuo sogno dello yacht al molo di Portofino. Sarà qui per rubarti il lavoro, un futuro migliore, ad offrirti un buon giro di prostituzione, una diversa disperazione ma l'identica rassegnazione. E allora di corsa al tabacchi vicino a tentar la fortuna con la vita in declino, per rifarti al gioco d'azzardo col gratta e vinci o il jackpot da oltre un miliardo, puntando forte, sfidando la sorte, rincorri i tuoi grandi sogni da star dentro i giorni inghiottiti nel fondo di un bar alla slot machine della felicità. Mi batto forte sul petto e ancora sto zitto. E no, non fermarti lì a pensare, ma sdraiati e chiudi un poco gli occhi dolci e continua a sognare un giorno migliore, quando potrai finalmente dimostrare tutto quel che sai fare. Alla soglia dei 35 ti sei sistemato e adeguato all'impiego che offriva il mercato. A quante ambizioni hai rinunciato e ti spieghi perché ti sei laureato. Ma questo non brucia d'affezionato cliente della banca che ti ha dato fiducia col mutuo infinito o una casa in affitto nei pressi del centro del sacrificio. Ora esci distrutto dal dopolavoro, un salto in palestra, la doccia e il profumo, poi passi dal centro, è quello il momento che aspettavi per essere a posto. Ti senti già meglio, ti scordi del resto, ridi e l'aperitivo ha più gusto al bar del centro, il centro del mondo, nel tuo abito giusto. Mi batto forte sul petto e ancora sto zitto. E no, non fermarti lì a pensare, ma sdraiati e chiudi un poco gli occhi dolci e continua a sognare un mondo migliore. Con la coscienza che dorme stai attento a non far troppo rumore. Ma oggi è sabato, è un giorno speciale e vai a far la fila al centro commerciale, ma non scendi giù in piazza a protestare, non ci credi che possa davvero servire ogni lotta, ogni sciopero, e che cosa è cambiato e da quanto non sei più iscritta a quel sindacato. Ora spingi il carrello fin dentro la folla, manifesti il dissenso sbuffando alla cassa. Ma non sei indifferente, non vuoi darti per vinto, vuoi sapere se l'Italia del calcio ha perso o ha vinto, e chi tira di coca e sta in Parlamento, chi va con i transgattoni sul pavimento, è fedele il ritratto di un altro festino a base di escort e di ottimo vino. Ma nessuno qui parla, nessuno interessa sapere del tuo destino. Mi batto forte sul petto e ancora sto zitto. E no, non fermarti lì a pensare, ma sdraiati e chiudi un poco gli occhi dolci e continua a sognare la tua pensione. Così potrai finalmente mandare tutti quanti a cagare. Luna, Luna, Luna, Dio sera. Blu Radio Sera.